il discorso cerniera del tubo e allungavo solamente il cannocchiale, cioè il tubo elementi ogni due metri e mettevo il dado, e restringevo il dado perché avevo fatto i due lati a ogni elemento, due lati, in modo che se si sparava uno c'era l'altro che sosteneva, sempre in acciaio inossidabile, sia il dado che il dado, che il verbulone, per cui non c'era problema, in qualsiasi momento io lo potevo o posso abbassare o sollevare, eccetera, eccetera. Mi sono chiarato qua? Sì, la mettevi orizzontale, ti piazzavi radiale, quello di piazzare, poi la giravi, la bloccavi e la mandavi su. Sì. Invece a livello di tiranti, di tiranteria, cosa mettevi? Puoi metterlo dappertutto, i tiranti, oppure ti rimane qualche parte dove non puoi attaccarli perché finisce la casa, diciamo. Dai. No, io non ho mai utilizzato tiranti, mai, in quasi 50 anni di frequenza, a febbraio questo tra l'altro, non ho mai e poi mai usato un tirante, il tubo è stato autocostruito, non quel tubo che vende da Bricomen, che è leggerino e di lamierino, i tubi comprati da Marcello, le varie sezioni in modo che uno entrava dentro l'altro. Li ho tagliati tutti quanti ai due metri e ci ho saldato due dadi, ci ho saldato con due bulloni per ogni elemento. E dunque è così che l'ho costruito e non ho mai e poi mai messo un tirante. E il palo da 40 anni, da 50 anni a questa parte è sempre bello, dritto, non c'è un minimo di piega, nulla, veramente è tranquillo. Ed è acciaio zingato? Roba zingata, ma l'ho anche tinto poi, tra l'altro. Avevo preso i pali tutti zingati, questo sì, però poi li avevo anche tinti, perciò si può immaginare. Insomma, un lavoro fatto ad hoc. Poi non avrei dubbi, no? Conoscendo una persona so che i lavori che fai li fai bene. Avanti Gianni. Ehi, ci siamo persi Claudio e Alessio. Che fine hanno fatto? Claudio abbiamo rilanciato un paio di volte. E ci stava acchiappando la graticola per il vento. Chi è questo Alessio? Alessio Pomponio. Ah, Pomponio c'era. Ah, il Pomponio. Ci sei Alessio? C'era anche Natalino, QRX, Ma tu dove stiamo andando? A Sassari, giusto? Ho capito bene. Sì, sono Monte Basso, dai. Vicino a Gianni? Linea d'aria siamo 700-800 metri, credo. Ok, io sto andando bene dai tuoi passi, sì. No, purtroppo la mia antenna rimane nella parte opposta, diciamo, rispetto al portatore, ed è coperta dal mio palazzo. Ti ascolto basso, però ti ascolto, se non ho disturbi ti ascolto. Ah, non ho capito, va bene. Purtroppo io Alghero, queste zone qua, Sorso, e se non metto l'antenna sul tetto avrò sempre difficoltà. La piazza sul tetto, la sto aspettando. Che non so, cioè, a parte che il tetto non ha accesso, capito? Bisogna aprire le tegole, per uscire fuori bisogna togliere le tegole. Poi ci vorrà murarci un palo, un paletto, sulla parte alta. E non è semplice, dai. Lo ti organizzi un giorno, una bella giornata, lo fai. Poi la gente qua sta entrando acqua perché siete saliti sul tetto. Non lo so. Però adesso va bene così, dai, ci accontentiamo. Avanti giù. Ok. Comunque, per chi non lo sa, per chi non ha saputo, l'hub delle vaccinazioni non c'è più a Predanieda. È stato trasferito in via Grazia d'Aredda, angolo via Malghinotti. Sì, l'ho letto avanti ieri forse, sul giornale, perché l'hanno chiuso. Adesso non so qua come faranno quei parcheggi, Se lo fanno anche al Bruzzo, all'ex manicomio, al coso, come si chiama? Al Conti? Sì, al Conti che lì, passando via Milano. Non lo so. E tu, anche la terza dovrai fare, o Giulio, ti hanno chiamato? No, non mi hanno chiamato. Casomai mi dovrò prenotare, perché lì adesso voglio una prenotazione di ragazze d'Edda, che poi non riesco a capire come può essere via Grazia d'Aredda, angolo via Malghinotti, dove eri tu, a meno che non è su proprio in alto, proprio alla fine di Via Castelletta, verso Via Maginotti. Allora sì, probabilmente lì, praticamente all'altezza della chiesa più o meno, perché se no altri punti non ce ne dovrebbero essere, perché c'è Via Salvatore Farina che è andata più in basso, poi c'è via Romagna, via Flumenaggia e via Nuzio Civi. Dunque non capisco come possano dire via Castelletta, angolo via Maginotti. Via Maginotti è Caralami, in poche parole. No, io ho letto proprio l'ingresso in via Maginotti, senza angolo, proprio l'ingresso da via Maginotti. Chi vuole entrare? Buonasera a tutti, Marino. Giulio, non hanno fatto quelle case nuove, hanno rifatto quelle case nuove, quelle vecchie. Un semiterrato, poco parole, un grande semiterrato. Ok, Giulio, riprendi, io sono in ascolto e sto facendo un lavoretto. Ok, ciao Marino, grazie per l'informazione. Ho capito, le case che sono state ristrutturate praticamente. Andare, un'altra informazione, Marino, visto che sei entrato in frequenza. Le buste del comune adesso dove le sta dando? Perché lì a Pradarieda non c'è più, lo so che non ci sono più. Allora, il martedì sarà tuo Pasqua, Giulio, il martedì, mattina e sera. Ho capito, va bene. Grazie Marino. Avanti Franco, Marino Ronzino è entrato, vai. Allora, siamo in un'azione preoccupata. Sì, conosco Marino, è che c'ha dei picchi negativi mostruosi nel mio strumento, non so Gianni, tu come lo senti a Marino? Io lo sento, lo sento benissimo, non ci ho fatto caso, ero un po' distratto, quindi lo saluto, ciao Marino, buonasera, piccola parentesi riguardo l'antenna, io ho posto nel tetto se ne ho, quindi se compri un matassone di cavo l'antenna, ti la porto per i nocchi. La piove è da lì, poco Marino. Sì, scusa, ciao Fra. No, qui è un pochino, solo un pochino. Oh Marino, ci sei ancora? Ti volevo chiedere anche un'altra cosa. L'avevi saputo di Salvatore Farina? Di Salvatore Farina. No, accendi una scusa. Farina, quello che lavora non si chiama più Farina. Salvatore Farina, il commesso che era con te da Rosa, quello robusto. Sì, saputo, sì. È un periodo che non stava bene io, tutto qua. Ok, Giù, riprendi, io sono facendo un piccolo trabacco, l'ascolto solo, avanti. Ok, d'accordo, Mari, alle prossime. Claudio, raccontaci, l'hai messa la massa alla graticola? Io e Franco abbiamo detto poc'anzi che stavi mettendo la massa a terra alla graticola, così almeno utilizzavi anche l'antenna vicino alla graticola. No, Marco Giù, sono uscito la porta a Filippo, si è fatto un giretto sotto lì al riparo a fare i bisogni, poi sono andato a pulire, nel frattempo ci ho fumato una sigaretta, ma stava diluviando, adesso ha smesso, quindi no, mi stavo ascoltando, non c'è problema, ero qua, ero sempre qua, non è che mi sono allontanato, nel frattempo stava parlando Franco. Ah, ma lì secondo me si può fare quel lavoro, perché tu c'hai il poggiolo, no? Basta mettere quella cappa che avevo messo a Daniele nel poggiolo e far uscire l'antenna fuori. Vado, io ho un altro piano sopra di me, capito? E poi il poggiolo ce l'ho dall'altra parte, io l'antenna ce l'ho su dalla parte del giardino, sulla finestra che è dal lato giardino. I poggioli ce li ho lato strada, dai. Tu non sei all'ultimo. Ma perché quattro piani alla casa tua? E tu sei al terzo, così è. No, io sono al primo. C'è una sotto di me e una sopra. Io sono a metà. Allora si può fare. Non si vuole. Riprendi Giù. Saluto mio figlio e arrivo. Ok, Claudio, siamo qua. Sì, beh certo. Sì, mi ricordo, infatti adesso anch'io stavo pensando, Daniele aveva l'antenna sul poggiolo, anch'io veramente di 20 anni ce l'ho avuta sul poggiolo, diciamo per 30 anni e oltre, quando abitavo nell'altra casa, avevo la Grand Prix, della Lemme, quattro radiali, metà in alluminio e metà in fibra. Eppure andava bene lo stesso e ne ho fatto dei bei collegamenti con quella Gran Prix, perché sul tetto non potevo salire in quanto c'era il proprietario del palazzo lì che era uno con il brigliotto, no, faceva dei cavalli e dunque vedeva solo le cose a modo suo, un deficiente praticamente. Se ancora oggi è vivo, mi va 90, 94 anni, mi va 95, beato lui. Va bene, dai, riprende fra. Sono uno spettacolo, e quanto sta piovendo qua, uno spettacolo. Che spettacolo, sì, la Gran Prix ha fatto la viale, è stata la mia prima antenna, anche a me ha dato un sacco di soddisfazioni, dopo abbiamo messo la Mantova. Tu con che antenna stai uscendo, Eugè? Con l'antenna dei Finocchi. Dei Finocchi? Sì, con la Game Master. Perché dei Finocchi? Perché Game Master. Ah, ho capito. No, non ci avrei mai pensato a questo gioco di parole. Quindi perché la mia è tipo Game Master, comunque la chiamo canna da pesca allora. Avanti Gianni. Eia, sì no, qua sta piovicinando poco, dai, rispetto a poco fa. E non intendi, fra, e te lo ridico, se vuoi mettere l'antenna qua da me, comprati un rotolone di capo, non ci sono problemi. Già mi gusta, meglio metto un traliccio da giù magari, dal giardino, un bel traliccio. Il palazzo sarà alto 3, 6, 9, fai 10, 11 metri di palazzo, devo superare diciamo i 10 metri, dai. Però considera una cosa, che stai uscendo bene, cioè mi arrivi benissimo tu qua fra, cioè arrivi 6, modulati quasi 7, quindi va bene. Però in ricezione è molto sorda, molti segnali non li sento, perché ripeto è attaccata al muro, è un palmo dal muro, poi quando mettono in funzione le pompe di calore non ti dico nulla, non sento più nessuno. Ma è algo quello normale. Infatti qualche giorno gli metto un bastone in mezzo alla ventola, gliela blocco. E fai bene! Mi se volete comprare il capo H1000, mi. È po' gugguzza. Da Amazon ho visto proprio oggi il prezzo. 6,80 euro al metro, fate un conto. Io l'avevo comprato qua, quello sempre originale, da Belden, l'avevo comprato a 2,50, l'avevo comprato da Fusaro. Oggi ho visto il prezzo, 6,80 euro al metro. Capita, non lo so più. Cos'è? Cosa è? L'elettrico dentro in oro hanno messo, non lo so, vai fra. Ma quale giù? L'H1000, 6,80 euro al metro, da Amazon. La Madonna, ne avevo preso, mi costa 50 metri io per carbonazzi, e poi vabbè l'ho utilizzato qua, ce l'ho messo nuovo perché quello là l'ho conservato, e poi avevo pagato 3 euro al metro, spedito, 6 euro, alla matta, e cos'è? Si vede che al posto del rame hanno usato oro, e cosa ne so, ma a me mi sembra esagerato, magari lì in quel negozio che cosa così tanto, mi sembra un'esagerazione, caspita, io l'avevo pagato da Fusaro a 2,50 euro, praticamente se ricordo bene erano 25 metri, 62 euro e qualcosa, dai, 62,50 euro, una cosa del genere, dunque facendo per 25, diviso 25, 2,50 euro al metro. Capito, allora lo stanno vendendo, vista così, cioè, sempre che sia giusto il prezzo, perché così ho letto, a computer l'ho letto, mi non è che dai il giornale, no, a computer, Amazon, 6,90 euro, cioè 80 al metro, fate il conto, pazzesco, vai qua. Assurdo, no, io l'ho pagato, 3 euro spedito, non lo ricordo come oggi perché è arrivata una matassa da 50 metri, una matassa da 50 metri, me l'aveva portata la GLS. Ho pagato 3 metri e 3 euro al metro spedito, però e l'avevo preso da, non mi ricordo che dove l'avevo preso, l'ho preso a Media Globe o da Tecno Comunicazione, non me lo ricordo, comunque un'azienda del genere. Voglio guardare nel cassetto perché c'ho tutte le ricevute sempre di quello che spendo e compro per la radio. Vai fra. Allora qua da Media Globe 3 euro al metro. Allora da Media Globe l'ho comprato. Sì, lo sto guardando adesso, mi ho guardato adesso sul telefono. era cosa una parì, chi era? Sì, ma sicuramente c'è stato qualche errore, perché non è possibile che possa costare 6,80 euro, ma pure ne vedremo. Comunque, così era, così ho letto e così sto dicendo, ma io non ci credo che possa essere così costoso, assolutamente. Massimo 3,50 euro, posso capire, ma 6 euro e 80 sono un bel di dinà, non è poco, no? Capita. Vai oggi. Ho detto che sono rimasto ancora RG58, arte povera. Anche le RG58 il suo lavoro lo fa lo stesso, anche se non è consigliabile, soprattutto con un K, vai, orientati almeno sull'H155, che è un ultimo capo anche quello, è dello stesso spessore dell'RG58, dunque molto flessibile, a differenza dell'H1000 che il filo centrale è rigido, non è multifilo, è rigido da 2,6 e 2 praticamente, 2,6 mm e 2, che poi non so, sono i millesimi, insomma, ecco. Se vuoi immaginare, tu pensa che io ho messo il PL, non ho avuto bisogno nemmeno di saldarlo, perché il filo entra dentro il gambo del PL, entra a forza, dunque non ho avuto bisogno nemmeno di saldarlo. Claudio, c'è la massa? La massa è massa, non c'entra niente, la massa è sempre quella, però il filo centrale l'ho infilato dentro il PL a forza, perché non entrava quasi qua. Dunque sono l'avrei dovuta addirittura limare, perché lo spessore del filo centrale è rigido, non è mille multifili, ed è 2,6 mm e 2. Ho capito, però lo spessore del filo è sempre lo stesso, cambia lo spessore del positivo, così è? Certo, il filo poi l'esterno è 10,3, è un centimetro e 3 mm, dunque deve utilizzare il PL, senza quella specie di manicotto che c'è dietro che avvita l'RG58, quello lo devi togliere, non va più bene, capito Eugenio? Ho capito. E facciamo il comprosso da quel filo, allora già ve lo ricordo al momento che lo devo acquistare. Comunque giù hai ragione, su Amazon uno lo sta vedendo a 6,50 euro. Che cosa sto dicendo? No, io addirittura l'ho letto 6,80 euro, proprio stamattina. No, siccome Amazon tratta diverse aziende, evidentemente io sono capitato proprio in quell'azienda dove lo vende caro, 6,80. Tu adesso mi stai dicendo che hai trovato 6,50, poi Media Globe 3 euro, sì, ma è quello, questo è giusto, è quello 3 euro, quindi è da farsi, dai, io ho pensato subito, qua c'è un errore, oppure sono ladri, ecco, tanto io non sto a girarci troppo attorno con le parole, vai fra. Sì, poi questo vedo, sarà da 2,35 euro, compra subito, più 4 euro di spedizione. Esatto, ci sono dei vari prezzi, dai. Dai, ringraziamo Gianni che è un po' in parcheggio. Avanti Gianni. Oi, ascolta, curiosità, ma Franco attaccato sei? Sì, no, beh, se non stacco non mi sente nessuno. Ah, ecco. E quanti sono? Giusto per la cronaca, se lo vuoi dire. No, non lo so, qui segna parecchio, ma ho misurato e saranno attorno agli 80. Ecco perché arrivi così bene. Mi baia strana. Hai capito, gli anabolizzanti. Eugenio, a confronto tra me e Franco, vabbè, lui chiaramente si sta aiutando. Lascia stare. Tu sei a 4, modulati quasi a 5, lui a 7, modulati a 8. Quasi a 8, eh. Ma te stai con sparisco, me. Hai problemi di disturbare qualcuno? No, io no, figurati, faccio antenna, adesso è staccato, poi mi dirai come arriva. Vabbè, non sono accordato adesso. L'antenna mia rimane proprio attaccata al televisore di quella persona che c'è dietro di me, diciamo, nell'appartamento. E non ha mai fatto un disturbo. Comunque ti sento, Santiago 2. Santiago 2. Vedi, senza vitamina non va da nessuna parte, è troppo cieca questa antenna, dai. Oh, caspita quanto aumenta. Anche la radio aumenta? Vabbè, normale, no? Beh, mi interessa che la radio sia buona. Con meno fatte, però ho mantenuto la radio a livelli accettabili. Avanti, Claudio. Cappa del Roggero, allora qua tu arrivi staccato 8, attaccato quasi 9 più 10, non sono 80 volte fa, sono molto di più, è retta a me. Guarda, ma tu ti devi, io vedo i calcoli, è impossibile che tu a Santiago 8 arrivi, vai a 9 più 10 con 80 watt, secondo me sono più di 100, forse anche 150, così è Giulio. Io direi vicino ai 300 invece, pensa un po'. Comunque va bene, non c'è problema. La meraviglia è che non c'è nessuna inclinazione della radio, che è bella, chiara, pulita, perfetta. Perché da 9,92 che arriva attaccato, mi arriva 9 più 15. Vai tra. Sì, no, qua segna parecchio. Qui segna per esempio 250, però misurandolo con lo strumento, diciamo, l'uscita della... non coincide, mi capito? Perché vuol dire lo strumento è... caputo. Sai che è così, sei vicino ai 300, sì, sei tranquillo, no? Ma comunque va bene, non c'è problema, capita, ci mancherebbe. Alla grande, fra. Vai, Eugenio. Da me Santiago 2 arriva a 7, modulati 8, figurati un poco. E comunque niente, già a pari senza annettare nulla nei fili, arrivi più forte tu. Poi lui quando inizia a iniettare roba nei fili, è normale che ti supera di brutto. Certo, acido e vitamine, questi sono steroidi. È un B507, non so, gli ho abbassato diciamo i watt del baracchino, perché prima dava anche di più, però ho voluto mantenere la radio ottima e perdere watt in uscita. C'è un B507, sta andando almeno con 230-240 watt, vai tranquillo, cosa 80 watt. Tu quando vieni qua portalo, attaccalo e portalo, che lo misuriamo col wattimetro, quello buono. Ti faccio vedere che quella radio con 5 watt, col Galaxy 5 watt, quel lineare da almeno 230-240 watt, ragione Giulio, mi sono sbagliato, ho detto più di 100, ma sono più di 200, futtidini, è impossibile. Vai da Santiago 7 a 9 più 10, cioè considera che Giulio è 9-10 di portante, modulato 9-15, più o meno come gli arrivo io, e tu sei quanto è lui, capito? È un bel di potenza, tranquillo che dà un bel di potenza a quelli miei. Avanti giù. Sì, ma è così. L'ho detto subito, no? Che è vicino ai 300, per cui vabbè, ma comunque va benissimo, non c'è problema. Tanto non fa interferenza, non fa niente, e fa bene a utilizzarlo, così almeno si fa sentire dappertutto. Anche in propagazione, tante volte abbiamo fatto collegamenti insieme e arrivava a meraviglia a Franco, considerando che l'antenna è messa nella posizione che è messa, praticamente in facciata, come quella di Natalino, solo che è un'autocostruita, ma è un'autocostruita con tutti i doveri delle misure, eccetera. Va bene così, ha fatto un buon lavoro. E la cosa più bella è questa, che l'ha fatta al primo colpo, senza stare lì a fare troppi tentativi, eccetera, eccetera. Vero Franco? Sì, come si dice al cinema, buona la prima. Avanti Eugenio. È di lusso, andava bene. Gianni the Prophet, la giovine ho preso lì a Sassa, te l'ho già detto. No, ripeti, scusa. Potrei salire a giorni a Sassari. Avvisami prima, mi fai un fischio. E niente. Vabbè, ho un messaggio su Motozappa, o mi fai uno squillo. E facciamo tutto, dai. Mi sembra di aver sentito Luca Perifella. Ha fatto un ingresso a gamba tesa. E poi è scomparso. Luca? Si faceva la Perifella. È uscito il gomino alla Berivella del vestone. Gli ha dato il rinculo. Mamma mia, quando ti prendeva all'osso, al malleolo, mamma mia. ma Leolo, no? Mi avete fatto venire in mente l'odore di una buccia, ma Leolo, una pedata che mi aveva dato quel bastardo di Bisiacchi, che è il giocatore della Torres, giocando al calcio, eh? Io ero un ragazzino, avrei avuto 17-18 anni, non di più, stavo facendo un favore a loro, alla Torres, perché stavamo giocando contro la Torres per allenarla, la Torres, in una partita infrasettimanale. Questo è deficiente perché l'ho fatto due volte di seguito. Il turno mi ha avuto una valla del bene, al malleo mi ha fatto stare mezza giornata colicato per terra. E c'era l'allenatore, l'ha chiamato e l'ha mandato via subito nel fogliatore. Ma è vergognati. Questo ragazzino dice, ti sta facendo un favore a te, che ti sta facendo allenare a sue spese. A te le immagini, fra. Attenzione, Gargamella. È mia casarella. Sì, mi hai già raccontato questa storia, mi ricordo. Purtroppo, per mi stanno chiamando, riprendi Garganet. Ah, attenzione, maglia la pazza, ci sei in frequenza. Mi sono rotto il ginocchio con XR600, corri in culo. Claudio, non c'è maglia la pazza. Maglia la palma c'è. Chi è? Avanti maglia la palma. Oh, Luca, ciao. Adesso vicino a te abbiamo le vaccinazioni, eh? Ah, ma sei contento? Sì, guarda, non trovo una notte, mi credi? Trovo un micchio chicchi per tutta la sera. E sono talmente felice che ce li ho lì. Come la ficca me la mi ribassa. Bianco per me. Ok, sì, perché adesso puoi sentire quelli che parlano in LPD, adesso lì è vicino a casa tua, e tu senti gli uomini che dirigono il traffico, perché hanno sicuramente anche lì la radiolina come ce l'avevano qua a Predanieda. Poi li sentivo anch'io, via giù. Ah, per quello, ho capito, vedi, è proprio di fronte a casa sono. Io apro la porta, ci do di fronte, faccio due passi. Mi è utile per mamma, dovrà fare la terza dose. Hai visto quel locale che ti ho detto l'altra volta per cosa stavamo facendo? Cosa, Cla? Quel locale che il giorno ci sono venuto, ha portato il computer e stavano allettendo, quello lì è. Eia, di fronte a casa, sì. Bello, bello, e anch'io dovrò andare per fare la terza dose. Ehi, vabbè, ma la terza dose la sta facendo quella categoria dei fragili, capito? Io ne ho fatto 5 oggi. 5 dosi hai fatto? Di Heineken. Cazzo, abbia da te. No, io solo il fine settimana e basta. In settimana niente alcol, solo acqua e boh. Venerdì e sabato. E basta. Ma giusto così, qualche birretta, niente di più. La terza dose me la facevo prima quando ero in forma, oramai non c'ho più età. Ho smesso anche di farmi la prima. Oh, mica la terza dose anche per il cuoco, mani mi. Allora devi fare, Cla. Sicuro, sicuro. Ciao Eugenio, mi ascolti? Ciao Lu, buonasera. Sempre molto basso ti ascolto, ma già ti tiro fuori per il momento. Andava, anch'io basso, ma ti ascolto, dai. Andava, Giulio, tu l'hai fatta la terza dose? No, ancora no, e l'ho fatta 3 mesi fa, devono passare prima 6 mesi per ogni individuo per poter fare la terza dose. Non è che la fai così, no? Ma poi mi devo prenotare, perché adesso è su prenotazione. Come ho fatto la volta scorsa, mi hanno prenotato col telefonino, mi avevano dato una data, mi avevano dato anche un orario, e io sono andato tranquillamente e nel giro di mezz'ora mi avevano vaccinato. Qui va sia la prima volta che la seconda volta. Adesso ho la terza, perciò non c'è problema. Alla faccia di chi dice che non ci vuole il vaccino. Il vaccino ci vuole come ci vuole, altro che la rovinimo di contagi come stanno sempre crescendo di nuovo. Vai qua. Comunque ho letto nel giornale che la terza dose non ha bisogno di prenotazione, poi non so se abbiano scritto una fesseria sulla nuova, quindi non lo so, da confermare. Vediamo se Gianni è rientrato, Gianni? Vabbè, dai, io stavo iniziando a cenare e mangiare qualcosa, io mangio come all'ospedale, ci sentiamo a frappì. Ciao Luca. Un altro giro, non mi dai più gemme, mi scendete fuori, eh. Cosa hai detto? Che il Milan sta perdendo col Porto, se perde fuori. Lo so, purtroppo è così. Guarda che adesso, hai visto Ronaldo ieri, è cucciolata che gli ha dato stava anche vicino la Sampdoria. E poi alla fine, sia alla partita l'andata l'ha bloccato, e lì hanno vinto, addirittura li hanno rimontati da 2-0 a 3-2. E ieri lo stesso stava vincendo l'Atalanta, e poi Ronaldo che ci ha messo il suo zampino anche al 91esimo e ha fatto il secondo gol, pareggio. È forte, non c'è niente da fare, è inutile che dicano di no, Ronaldo è forte, è il più forte di tutti. Terra, 91esimo, per carità, la Cerenza può chiamare in campo, non il Milan è fuori dalla Champions, è fuori se perde, e il Milan evidentemente sta puntando al campionato, a differenza della Juve, la Juve in campionato è fenichifo, in Champions è la numero uno, già passata agli ottavi, 4 su 4, mai persa una, non è già i due, rimane vinto 4-2, quindi, vabbè, no, 4-1, mi conta il 4-2, non mi ricordo, contro il Zenit, vabbè. Va bene, va bene, cosa sta dicendo Eugenio? No, volevo chiedere a Franco, se mi posso permettere, di che anno è, perché la voce sembrava la mia età. Io vado per i 56. Ah, no, vabbè. Genio, tu sei giovane. Vabbè, però ha una voce molto, molto chiara, molto... Se vuoi avvicinare la società, dai. Sei giovane tu? Ah, già ce l'ha l'età, dai. Lui, quanti anni hai tu? Perché c'è sempre che lo possa dire, Eugenio. Sì, no, che problema c'è, ne ho fatto 48 l'altro giorno. Ehi, dai, non è che ci sia più una mezza differenza, dai. Sì, non fatti. Qui mi stanno chiamando, dai, vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao Eugenio, poi Claudio, Gianni, se siete ancora in ascolto, chi è rimasto? Ricordatemi, Giulio, naturalmente, chiedo scusa se sto dimenticando qualcuno, dai, avanti Giulio. Ok, ciao Franco, allora, buona cena, dai, quando lo fai, grazie per la chiacchierata, è sempre un piacere chiacchierare con te. Avanti Claudio. Ciao, fra un abbraccio, saluti dall'aria da Anna, per Anna e Carlo. Ciao, buona cena e buon tutto. Avanti Gianni. Dai, vi ringrazio, ricambiano tutti qua la casa, dai. Un abbraccio a tutti. Ciao, fra, avanti Gianni. Gianni si è allontanato. Va bene, approfitto io ragazzi, dai, ci sentiamo più tardi, io vado a masticare anch'io. Che vuoi prendere l'antibiotico? Ci sentiamo più tardi se ci siete, ciao Genio, non per Chihuahua, vai Giulio. Ok, ciao Eugenio, buona cena anche a te. Tu pensa che quando sono entrato in frequenza io ancora tu non eri nato. Guarda te che sei il giovincello, diciamo così, dai, per cui va bene. E così è qua, gli anni miei stanno volando, sono quasi volati. E manco quando sono entrato io, Giulio, sono entrato nel 73, poi nel 75 mi sembra ci avevano dato la concessione, perciò io 61, va bene, il tempo passa caro mio, il tempo passa. Vabbè, hai capito com'è la cosa? È un grande campione veramente, poi lì si trova bene lui perché la squadra gioca per lui, lui gioca per la squadra, segna, lui è nato lì. È chiaro che lì doveva tornare per finire la carriera, ma è un fuori classe che ha fatto due gol micidiali. Ma due gol a vero, Gasperini si è portato mai in campo, poi al 91esimo di nuovo, già li ha beffati a... di là, capito, che stavano perdendo 2-0 e hanno vinto 3-2. Arimani ha fatto la doppietta a Roma Pesci, si sciughe. Però devo darti atto, Giulio, Di Bala ha fatto un partitone ieri, tutta la squadra ha fatto un partitone. Sì, ieri hanno fatto una partita d'attacco e è così che si gioca. Ripeto, l'ho letto, io tutti i giorni seguo sia i video che fanno i vari Quirico, Matt, eccetera, eccetera, e poi leggo anche il giornale tutti i giorni, sempre al computer, però lo leggo. L'ha spogliato io, si è lamentato, soprattutto Di Bala, si è lamentato con Allegri, che lui fa troppo gioco di precipitico, bisogna giocare in attacco, subito. E così è stato. Ieri ha giocato l'attacco, non si è messo in difesa né nel primo tempo e né tantomeno nel secondo tempo. Dice, è inutile fare un golletto e poi aspettare e metterci in difesa lì, che prima o poi, o una punizione, o un calcio d'angolo, con un colpo di testa, ti fanno gol, un rigore, che può succedere, è successo diverse volte. E dunque è inutile, bisogna giocare per fare più di uno e più di due gol, possibilmente, in modo se subisci un gol, hai sempre un vantaggio. Il calcio si gioca attaccando, cos'è questa cosa? Questo fatto di nascondersi in difesa, che è una vergogna, per carità, senza gioco, senza niente. Ieri hanno corso, hai visto che quando vogliono corrono, altro che se vogliono correre, corrono, solo che c'è malumore qua, c'è malumore in quella società. Eccomi. Ecco Gianni, sì, a me è un vito, io lo sai. Io critico molto la Juve quando gioca male. Ieri ho visto la Juve finalmente, ma l'ha detto anche dopo a pressing, a doppio champion, l'ha detto anche Tacchinardi. Ecco, qualcuno dice che la Juve non gioca, ecco la Juve gioca, quando deve giocare gioca, ma noi puoi giocare in champion, perché sennò due sono le cose. Lo stai puntando alla champion, del campionato non te ne frotte niente, perché lo sta dimostrando, cioè è una squadra completamente diversa, cioè 4 su 4, è tutto il Gessi, adesso deve giocare di nuovo, c'è lo Zenit, il Marmo, ce l'ha accuti tutti, e con grande partite, soprattutto quella di ieri, sia l'andata che il ritorno allo Zenit, l'ha distrutto, lo Zenit non è una squadretta, ha fatto anche due gol bellissimi. Però dico, o giochi o non giochi, se punti alla Champions allora ci sta, però punta almeno al quarto posto per assicurarti la Champions al prossimo anno, certo quarto posto, ma così ti stai allontanando troppo dal terzo e quarto posto, capito? Avanti Rubroffè, cambio. Leia, sì, mi sono dovuto allontanare. Niente, non so che ci sia rimasto. Ragazzi, io colgo l'occasione del rilancio, perché devo fare della roba qua a casa e quindi vi devo lasciare, dai. Preparare da mangiare, insomma. Vi saluto, un saluto a tutta la ciurmaglia, come si dice. E niente, grazie del QSO e ci aggiorniamo quanto prima. Ok, buona serata, buona carica e un saluto a tutti, dai, buona serata. Dai, giù. Ok, ciao Gianni, grazie a te per la chiacchierata. Fate sentire, dai, la sera ci siamo, tutte le sere praticamente, una mezz'oretta ce la passiamo insieme alla radio, dai, cerchiamo di ravvivarla a questa frequenza, perché se no siamo proprio dei morti. Così, parlando in maniera scherzosa, chiaramente, ci mancherebbe. Va bene, alle prossime, ciao ancora Gianni, ci sentiamo. Avanti qua. Io ho lasciato un attimo di bianco, non sento Roberto Gianfranco stasera, Va bene, era tutta la sera acceso qua, infatti ho detto, ci faccio due chiacchiere, dice ci di tu, c'era gente che mi può interessare a chiacchierare, altrimenti no, non c'entro neanche. Va bene, ciao Gianni, buona serata, buon tutto, buona pasta asciutta e ci sentiamo alle prossime. E niente, così è, adesso il Milan sta giocando, c'è Milan Porto, sta vincendo, sta perdendo in casa il Milan 1-0, è già finito il primo tempo, se non rimonta il Milan deve vincere, altrimenti non passa agli ottavi, non va agli ottavi, invece la Juve è già agli ottavi. A Londra può anche perdere, ma non penso che perda, se fa il gioco di ieri non perde assolutamente, tenendo conto che quella è una grandissima squadra, però può anche perdere, perché oramai ha diritto al passaggio diretto, perché le ha vinte tutte e quattro. Sì, la Juve ha punteggio pieno, ha fatto 12 punti, 12 punti, per cui è già qualificata agli ottavi con due partite di anticipo addirittura. Ieri bastava anche un punto per poter partecipare di diritto agli ottavi, invece ieri ha fatto 3 di punti e tanto meglio. Adesso vediamo le due prossime partite, cosa fa, con Chelsea soprattutto, vedremo un po'. Speriamo bene, Clark, cosa vuoi che ti dica? Se si sveglia, una cosa è certa, se la Juve gioca la Juve, non ce n'è per nessuno, ma questo deve giocare sempre. Se poi invece hanno queste partite così, un giorno bene e 10 male, allora non va bene. Ma se la Juve veramente dovesse giocare da Juve, da quello che è sempre stata, non ce n'è per nessuno, nemmeno in Champions. Purtroppo la Juve non è continua e allora non va bene, tutto lì. Vai qua. Ma come dico io, il ballone è tondo, come dice anche qualche altro, il ballone è tondo. Ci sono anche le altre squadre che non è che stiano facendo un grande campionato, stanno segnando, però stanno segnando, ma gioco ne vedo poco io, ne vedo poco, capito? Se tu vuoi vedere adesso il Milan sta facendo cagare, scusando il termine, in Champions, mentre adesso c'è il derby, c'è Milan e Inter, quindi sono due squadre molto molto forti che giocano in attacco e bisogna vedere, perché se l'Inter passa col Milan sono cacchi da cagare, capito? Cioè c'è una bella squadra, una bella rosa, una bella, cioè, sanno giocare veramente a pallone, sanno giocare veramente forte, sono forti, però sta dimostrando di non giocare bene oggi. Milan è una grande squadra, non lo so, può darsi che si sveglia al secondo tempo, però deve stare attenta, perché se vince passa, altrimenti addio Champion, ha fatto di tutto per entrare in Champion e non arriva manca ad ottavi finale. E qui sono le altre squadre, me lo sapessi, qui sono le altre squadre, mentre la Juve ha dimostrato che in Champion ha sempre più carattere, sempre più voglia di esserci, mentre sto notando che del campionato secondo me non gliene frega niente. Vabbè, però deve tenere conto che deve rimanere al quarto posto, se non fa il quarto posto non è vado in Champions, fa dell'Europa League. L'Europa League che non va oltre il settimo posto, anche se non nemmeno quello farebbe, capita. In questo momento mi sembra che hanno al nuovo posto in classifica, per cui si deve dare una bella svegliata, si deve dare, altro che, perché ancora c'è tempo, mi si può recuperare molto. Sarà difficile riuscire a vincere il campionato, però diciamo che le prime posizioni sono sempre alla portata della Juve se si svegliasse, perché gli elementi ce li ha e ieri l'hanno dimostrato che sanno giocare al calcio, solo che si devono svegliare. È utile stare lì con queste gelosie che ci sono negli spogliatoi, eccetera eccetera, non va bene nella maniera più assoluta. E a me mi meraviglia anche molto il presidente della Juve, che non riesce a sapersi imporre, non ha il minimo coraggio che aveva ad esempio lo zio e il padre di Andrea. Perciò devono svegliarsi tutti quanti, la società compresa, soprattutto la società. È quello, come sono chiesa ieri, minchia, rientrato dopo l'infortunio, ha fatto una partita e anche il gol, bellissimo quel gol, destro, sinistro e via, bello angolato, bello anche il gol di Dybala, bello quello di Morata in chiusura, in velocità. E la squadra c'è, non c'è ombra di dubbio che c'è, però ti ripeto, devono stare attenti, perché tu mi insegni che 1, 2, 3, 4 fanno la Champions, gli altri fanno l'Europa League, quindi tieni conto che qualche anno fa era a 16 punti dalla prima e poi ha vinto il campionato, quindi non penso che debba vincere il campionato, perché secondo me non stanno puntando al campionato, però certo il quarto posto la Juve lo fa sicuramente, se si mettono un po' in carreggiata. KK, ti hanno chiamato a te per caso? Perché a me mi hanno già dato un fischio. No, ancora no, non mi hanno chiamato, ma siamo lì vicini. Per cui, ma se devi andare, claro, non c'è problema, vai pure, prima la famiglia e dopo l'ubbi della radio, ci mancherebbe altro. Sì, ma è così qua, e il discorso è sempre quello. Se la Juventus si mette in testa di giocare, è forte, perché gli elementi ci sono, Castitina, solo che non riesco a capire, a concepire come mai, cosa sia successo in questa squadra. Ma questo è già da qualche anno, Poi la società si deve rivedere per fare veramente una squadra, perché è 4 anni che sta comprando un difensore centrale e non l'ha mai preso, non c'è mai riuscito a prenderlo. E altrettanto 4 anni comprando dei terzini di sinistra e anche di destra, perché non ne ha né a destra né a sinistra, perché Alessandro non è più quello di una volta. E Danilo un pochino si sta mettendo in carreggiata adesso, però quando non c'è Danilo c'è quello che gioca a destra, Quadrado, che non è un terzino, quello va bene alla d'attacco, per cui non va bene. Poi ci vogliono 2 o 3 centrocampisti come si deve, che siano all'altezza della Juve. Se non si svegliano questi che ha, se poi si svegliano, allora tanto male tenerli, perché sono furti, la verità. Solo che bisogna vedere come la pensano questa gente. Staremo bene. Vabbè, guarda, dai, ti saluto allora, buona cena, e metti bene la massa, la graticola, così almeno le bistecche si scaldano bene e cuociono meglio. Ciao Clara, saluti in casa, ci sentiamo, buona cena. Ciao Giulio, grazie per questo, saluto tutti cordialmente. Ci aggiorniamo domani, dai, che sta di nuovo piovendo, così stacco tutto e abbasso l'attenzione. Ciao, grazie, già ne parliamo un altro momento, ciao. Ok, ciao Casca, di nuovo, ciao, grazie a te, ciao. Andiamo, Casca, alla fare mi vogliono, non appena. C'è qualcuno su 10? Ma l'ho detto, non c'è nessuno. Chi è avanti? Non c'è nessuno, Robè. No, non c'è nessuno. Tu chiami a 4 ore della notte. In pieno orario vecchio, Appunto, con circa più di 9 di ritardo. E beh, che si dice? Un sacco di seccature, guarda. Di seccature o di fregature? Non capisco. Sì. Quasi ti canto una canzone. Lo sai il titolo? No, ho capito. Hai detto, ripeti, un sacco di fregature o di seccature? Tutte e due. Comunque. Ho detto, se vuoi ti canti una canzone. Però tanto sta piovendo, puoi anche cantare. Appunto. Non ci ho letta per fare i circuiti stampati. Perché li stai ancora facendo? Anche l'altro giorno da Capri hanno preso la vetronite col rame e con l'acido, il pennarello, per fare un circuito stampato. No, in realtà questo era un perforato, proprio a causa delle dimensioni piccolissime. È un amplificatorino da 1 watt che deve entrare dentro una cosa impossibile. Però la cosa impossibile sta iniziando a rompere le palle, perché dà dei disturbi di natura impulsiva. Il fatto di essere una pianta è un amplificatore. Poi non ti dico, guarda, stamattina a momenti, vabbè, di norma non mi attacco per i prezzi, però ogni tanto dare qualche colpetto ci vuole, no? Certo. cioè gli altri che vendono a 50 centesimi dei volgarissimi integrati su Amazon da 5 euro lavorando a Karachi, tanto è vero che c'è una busta con credo 50 N55 e questi 2 euro. Guarda, se adesso ho la possibilità ai cinesi di entrare a vendere componenti elettronici, però diretti, senza fare dogane e cose del genere, morirebbe il mercato, perché ho visto dei prezzi, ma anche di apparecchiature, dei cloni di apparecchi di grandissimo pregio, li fanno esattamente uguali, e parliamo di roba di alta fedeltà, di cose, adesso stanno facendo anche gli HF, eccetera, ma io ti parlo di apparecchi che costano migliaia e migliaia di euro, di amplificatori audio, li fanno identici, proprio sputtati con lo stesso circuito, tutto quanto, magari tu mi dirai la componentistica non sarà super selezionata come quelle, ma le vendono a un decimo del prezzo di quello che costa. No, ma a prescindere io faccio un discorso proprio economico, io capisco che tu lo vendi magari il doppio perché ne devi togliere qualche spesuccia, però arrivare a 4 volte mi sembra un pochettino una presa per insomma, mi è capito uno che fa il riparatore a un certo punto, se ti compra un pezzo di televisore che di lì i prezzi integrati lo sai sono ben diversi, soprattutto se si tratta magari di qualche memoria, di qualche sistema di programmazione e così via, quanto ti deve prendere quello lì? Già sono cari di per sé stessi, si prende 200 euro, prendi il televisore, prendi la macchina.